Qui radar a torre di controllo, qui radar a torre di controllo. È in arrivo sulla pista di atterraggio un aereo della RAF. RAF? Ma cos'è? RAF è Radio Alto Ferrarese, via De Amicis 7, Bondeno. Radio Alto Ferrarese ti dà ogni giorno tanta musica, musica con la M maiuscola. Radio Alto Ferrarese ti dà tutta se stessa. Tutto è favoloso a Radio Alto Ferrarese e se non ci credete siamo qui per dimostrarvelo. Che posto favoloso, è il paradiso artificiale, quanta roba e che prezzo.